Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea, storie di nuovi italiani. Questa sera una storia straordinaria, la storia di un campione, 5 volte campione mondiale di kickboxing, un grande atleta che ha portato l'Italia sul podio più volte, Giorgio Petrosian, benvenuto. Buonasera. Buonasera Giorgio, grazie di essere con noi, reduce da qualche tempo ormai da Tokyo, dove ad ottobre ha vinto di nuovo il One Championship, la prima volta tra l'altro in cui era in palio anche una somma di denaro consistente. Un grande atleta, dicevamo, italiano, naturalizzato italiano, ma di origini armene, per questo noi l'abbiamo chiamata per raccontare la sua storia, che è una storia bellissima, affascinante, interessante, di resistenza, di caparbietà anche, mi verrebbe da dire, che inizia lontano nel tempo, no? Ci può raccontare da dove proviene la sua famiglia? Allora, sì, inizia dal 99, quando mio padre ha deciso di portare i suoi figli, che cioè io e mio fratello grande, portare dall'Armenia in un paese dove si stava meglio, perché in Armenia c'erano problemi, guerra col militare lì, con l'Azerbaigian, e quindi voleva far crescere i suoi figli in un posto migliore, e la gente non aveva niente da mangiare, è cominciata la guerra con l'Azerbaigian, i problemi, non avevi, facevi la fila di mattina per prendere un pezzo di pane, ogni famiglia prendeva un pezzo di pane. E niente, noi siamo capitati in Europa, volevamo in Europa, ma siamo capitati a Milano per caso. Avevo 13 anni, un lungo viaggio col camion, insomma un viaggio abbastanza sofferente, siamo scappati dall'Armenia, no? Come clandestini. Allora, vorrei proprio che ripercorressi con noi quei momenti, quel viaggio così drammatico, un viaggio rocambolesco anche, che è durato 10 giorni, nascosti all'interno di un autocarro. Siete arrivati illegalmente in Italia? Assolutamente, sì, legalmente, perché siamo scappati dall'Armenia, quindi mi ricordo era molto freddo, io stavo male, avevo 40 di febbre, tonsillite. Quando siamo arrivati non avevamo né soldi per comprare qualcosa di mangiare o un posto per dormire, dormivamo in stazione di Milano Centrale, mio padre era preoccupatissimo perché vedeva che io non stavo bene, però dopo le cose piano piano sono andati in miglioramento, siamo arrivati a Gorizia tramite una persona che è una città piccola dove mio padre voleva portare i suoi figli, in un posto piccolo dove non c'è tanta delinquenza, non c'è, voleva far crescere in un paese piccolo, e quindi siamo andati a Gorizia. Che ricordo hai della tua infanzia in Armenia? Ma io ho dei bellissimi ricordi, mi ricordo che ogni anno andavamo al mese una volta al lago Sevan, facevamo le ferie lì, insomma da piccolo sempre mi allenavo, avevo 11 anni, andavo a correre di mattina e dopo andavo a scuola, avevo già le idee chiare, volevo diventare un campione già quando ero piccolo. Quando hai combattuto il tuo primo incontro ufficiale? Il mio primo incontro ufficiale avevo 16 anni in Italia. Quindi eri già in Italia. Però già in Italia. Dicevi che questa passione per le arti marziali ti è nata già da piccolo, tra l'altro anche guardando dei film, mi pare di aver letto. Assolutamente sì, guardavo i film di Bruce Lee, di Van Damme, e dopo uscivo fuori e facevo quello che vedevo nei film. Volevo diventare un campione, non ho mai immaginato la mia vita senza questo sport. Ho creduto fino in fondo, anche grazie a mio padre, che senza di lui non ce l'avrei mai fatto. Hai davvero un gran coraggio, Leonard. Non perderlo mai, perché è un bene prezioso. Io l'ho perso molti anni fa e non l'ho più ritrovato. Ecco, tuo padre ti ha sempre appoggiato nei tuoi sogni. Assolutamente sì, mio padre ha sempre detto, anche i suoi amici, perché quando mi portava in palestra i suoi amici dicevano: dai, si chiama Andranik mio padre, dai Andrei, sono tutti ragazzini uguali. E lui diceva: no, vedrete che il mio figlio prima o poi diventerà il numero uno al mondo. E tutti ridevano, dicevano: dai, sono come tutti i ragazzini, non adesso esagerare. Però alla fine aveva ragione, io ho ascoltato a lui, mi sono allenato duramente negli anni e i risultati sono arrivati. Come la ricordi quella, quel viaggio in quel camion dove eravate nascosti? Ma eravamo nascosti, insomma, dentro c'erano scatoloni, noi ci fermavamo solo per fare i bisogni o per mangiare qualcosa. Un viaggio non facile. Un momento drammatico, insomma, sì, della tua vita. È stato un momento, non è stato facile, però diciamo che è stato più difficile per il mio padre, perché noi comunque eravamo piccoli, non ti rendi conto cosa ci sta succedendo, però mio padre, insomma, portare i suoi figli, vedeva anche che non stavamo bene, insomma, non è facile stare in camion, freddo, mangiare. Insomma, ha sofferto abbastanza mio padre, sì. E poi siete arrivati, come dicevi, vi siete trasferiti a Gorizia, avete... Sì, siamo trasferiti a Gorizia, vivevamo in Caritas, mangiavamo lì e dopo piano abbiamo trovato questo signore che ci ha ospitato in una casa sua, che si chiama Medeot Mario, come il mio secondo padre. Noi stavamo in una casa dove facevamo il custode di questa fabbrica qua di legno, no? Vivevamo lì e facevamo i lavori per questo signore, tagliavamo l'erba, insomma, facevamo un po' di guardia anche in fabbrica, insomma. E dopo sono arrivati mia madre, mio fratello piccolo, Armen, e la mia sorella. E lì la famiglia si è ricongiunta. Parlavi di questo signore che è come per te un secondo padre, quindi c'è stata un'accoglienza anche positiva da parte degli italiani. Assolutamente sì, perché una persona speciale, il mio primo fan, il mio primo tifoso, che ha visto tutti i miei incontri quando avevo 16 anni, mi portava sempre in giro, insomma adesso ha 80 passa anni, però una persona in gamba, ogni volta che vado a Gorizia vado a trovarli, insomma è una persona squisita. Nei primi anni della tua carriera hai lavorato anche come muratore contemporaneamente per mantenerti, insomma per avere anche un piano B, immagino, no? Prima delle grandi sì. vittorie. Come li ricordi quegli anni faticosi? Gli anni faticosi, sì, lavoravo muratore, insomma andavamo in bici mattina, facevamo 8 ore di muratore, in nero ovviamente, non si poteva lavorare, eravamo piccoli, però per siccome non avevamo soldi da mangiare dovevo per forza lavorare, anche perché prima non lasciavano a mio padre lavorare, perché noi abbiamo chiesto l'asilo politico, no? Quindi loro non ti davano il permesso di lavorare. Lavoravo e dopo il lavoro andavo subito in palestra, però la fatica che facevo volentieri, perché sapevo che prima o poi sarei riuscito a diventare qualcuno sul ring. Non siamo marionette, cacciatevelo in testa o ritornerò. Ho vinto tutti i più grandi tornei che sono esistiti. Quando ho vinto a Roma ho preso la cittadinanza per meriti sportivi, il titolo, e il giorno dopo dell'incontro che avevo vinto è venuto a casa la lettera con la bandiera italiana stesa dal presidente napoletano, dove diceva che facevo parte dei campioni mondiali italiani. Da lì ho preso la cittadinanza. Dopo siamo arrivati a Milano, noi abbiamo aperto la nostra palestra, io ho continuato sempre a vincere. Adesso c'è questo circuito molto importante che è il numero uno al mondo, che è One Championship, il vincitore prendeva $1 milioni, no? Insomma, per il nostro ambiente di kickboxing penso che nessuno... Beh, è una cifra sì. straordinaria per qualsiasi ambiente, a dir la verità. Ci dobbiamo fermare brevemente perché c'è una pausa, ma torniamo a raccontare la tua straordinaria storia tra pochissimo. Figli di Enea. Questa sera siamo con Giorgio Petrosian, che è un Thai boxer, un kickboxer armeno naturalizzato italiano, un grande campione italiano. Raccontava poco fa il fatto che nell'ultimo torneo che ha vinto, la One Championship, è stato un grandissimo successo, ma soprattutto dietro c'è stato anche un lavoro enorme, un lavoro di grande fatica e una grande soddisfazione. Dicevamo, Giorgio, la cittadinanza italiana. Anna, tu stavi raccontando che l'hai ottenuta per meriti sportivi. È stato emozionante quel giorno in cui ti hanno conferito la cittadinanza? Sì, è stato molto emozionante, però per me non è cambiato più di tanto, perché io già i primi incontri ho combattuto sotto la bandiera italiana, ho vinto parecchi titoli all'estero che non avevo ancora la cittadinanza, però già quella volta mi sentivo italiano, quindi ho sempre combattuto la bandiera italiana, ho portato alto la bandiera italiana in tutto il mondo, e quando è arrivato la cittadinanza, diciamo che sono stato felicissimo più che altro per i viaggi che facevo io, e per andare all'estero avevo un documento dove non riconoscevano, e dovevo ogni volta fare 3 ore di file perché non riconoscevano questo documento qua, però dopo, quando ho preso il passaporto, adesso è, diciamo che è molto più facile per me anche viaggiare, combattere. Lei è un esempio di integrazione riuscita e anche di un'Italia tutto sommato accogliente, come lei ci raccontava. Ci sono anche casi differenti, e ho sentito che lei è abbastanza critico nei confronti dello Ius Soli oppure dello Ius Culture. Ovviamente non sono tutti uguali, tutti stranieri. Ovviamente chi merita è giusto che prende la cittadinanza, e invece chi sbaglia deve pagare e non deve ottenere la cittadinanza. Questo, secondo me, sono un po' di regole che secondo me in Italia non funzionano ancora bene. Molti atleti però non hanno ancora la cittadinanza italiana, magari vivono da tantissimi anni in Italia o sono addirittura nati in Italia da genitori stranieri, e questo è un tema molto dibattuto, credo, nello sport, no? Sì, ci sono tanti, io conosco tanti che dopo 10 anni non hanno ancora la cittadinanza, brave persone, lavoratori, insomma, che meritano di prendere la cittadinanza, e conosco anche gente che magari ha preso la cittadinanza che forse non meritava, però questo non mi riguarda a me. Diceva della sua attività anche a Milano, non soltanto come campione ma anche come imprenditore adesso, no? Nel senso che con suo fratello mi pare di capire che abbia messo insieme un'attività sportiva. Sì, noi abbiamo aperto la palestra a Milano, dove abbiamo tanti agonisti, insegniamo ai bambini, poi mio fratello organizza Petrosian Mania, dove combatterò io 1° febbraio, difenderò il mio titolo mondiale di ISCA proprio a Milano, Allianz Cloud. Dopo circa 9 anni torno a combattere Allianz Cloud, ed è questo che mi fa piacere, perché io ho un contratto esclusivo con One Championship dove posso combattere solo all'estero, e una volta all'anno posso combattere in Italia e qui a Milano. Quindi, insomma, per chi vuole vedermi dal vivo, l'occasione è buona per venire. Ci sono 2 scuole di pensiero sulla box e sul kickboxing. C'è chi ritiene che siano degli sport pericolosi e c'è chi invece sostiene che incanalano la rabbia di ragazzi magari delle periferie. Mi pare di capire che questo sia il secondo filone, sia quello che le appartiene di più. Assolutamente, non è uno sport violento, qui è uno sport violento dove violi le regole. Noi abbiamo le regole, quando combattiamo ci sono le regole, dove tu devi rispettare le regole, e anche per i bambini serve, perché insegni la disciplina, intanto porti via dalle strade, che il giorno d'oggi è importante fare qualsiasi tipo sport, non solo il nostro ma qualsiasi tipo di sport, e noi vediamo i risultati, vediamo tanti ragazzini che vengono in palestra e aiutiamo, insegniamo il rispetto, insegniamo l'educazione, insegniamo questa disciplina. Assolutamente non è uno sport violento. A livelli amatoriali va bene fare a chiunque. Ovvio che livelli come il mio ti puoi far male. E lei si è fatto male qualche volta, perché ho letto che ha avuto 10 operazioni solo alla mano sinistra. Sì, mi sono fatto male tante volte, questo fa parte un po' del gioco, un po' ho avuto anche la sfiga di fratturarmi le mani, però non ho mai mollato e ho sempre creduto in me. C'è una frase molto bella in una sua intervista in cui lei dice: se la testa ha voglia, supera anche il corpo. E assolutamente elogia sì. Molto il fatto di studiare molto, anche studiare l'avversario, studiare l'incontro a cui si va preparati. Quindi non è solo una questione, ovviamente, di fisicità, di allenamento, ma anche di determinazione e volontà di testa. Soprattutto nel mio caso, soprattutto di testa, perché Puoi essere forte tanto fisicamente, ma se la testa non c'è non puoi assolutamente mettere in pratica le tue capacità. La testa è molto importante, studi ai miei livelli, studi l'avversario come il mio avversario studia a me. Insomma, c'è tanto lavoro mentale anche, quindi non è facile, uno sport completo. E secondo lei potrebbe essere questa la ragione, il fatto di essere abituati alla fatica fisica e alla determinazione, la voglia di arrivare, che porta molti italiani di origini straniere ad avere voglia di arrivare? Perché noi in questa trasmissione ne sentiamo molti e c'è uno scatto di determinazione forse in più. Ma questo assolutamente aiuta moltissimo. Se hai la voglia di fare, se hai la fama di combattere, vuoi sempre vincere, non molli mai e prima o poi ovviamente i risultati arrivano. Però insomma tanti non riescono a fare perché non è uno sport facile al mio livello, no? Quindi magari mollano, si perdono per le strade. Un premio da $1,000,000 ed una vittoria straordinaria per Giorgio Petrosian, che ha battuto ai punti dopo 3 round combattutissimi il francese Semi Sana nella finale del Kickboxing World Grand Prix di Tokyo, nella gabbia del circuito One Championship, prestigioso palcoscenico che ha catalizzato per un giorno intero l'attenzione del mondo degli sport da combattimento. Un combattimento che rimarrà per sempre nella storia di questo fighter italiano di origini armene che da oltre 10 anni... Leggevo che qualche volta, qualche notte probabilmente nei suoi sogni, torna alla mente l'incontro al Madison, l'unica sconfitta di tanti incontri che lei ha avuto. E invece quelle 10 giorni, 10 notti passati nel camion nascosti, le tornano mai alla mente oppure tornano nei sogni, tornano nell'inconscio? No, diciamo che io assolutamente non dimentico il mio passato, non dimentico da dove provengo, quindi questo mi aiuta tanto, però guardo anche il futuro, no? Guardo anche il presente ed è forse per questo che ho questa grinta qua dentro di me che mi fa vincere e mi fa continuare. Allora la aspettiamo a Milano il 1° di febbraio per questo incontro. Assolutamente sì, è una serata secondo me da non perdere, ci saranno 16 incontri, 2 titoli mondiali, tanto spettacolo, non solo incontro ma musica, luci, tanto spettacolo, ci saranno ovviamente tanti bellissimi incontri. È uno spettacolo anche per famiglie ormai questo. Sì, assolutamente sì, vengono famiglie, vengono i bambini e l'ambiente è molto, a differenza di calcio, è molto, molto più rispettoso l'ambiente, quindi per chi vuole vedermi dal vivo è l'occasione buona per venire il 1° di febbraio a Milano, ex Pallalido, che è Candy Arena si chiama adesso. Grazie a Giorgio Petrosian per essere stato con noi, per averci raccontato la sua storia straordinaria. Grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. E prima di chiudere la nostra puntata abbiamo il piacere e l'onore di avere un'anticipazione del Guardian, il giornale britannico, che a metà febbraio pubblicherà un documentario online sull'immigrazione italiana a Napoli. A girarlo una regista inglese che vive da 4-5 anni a Napoli. Il documentario si chiama Teranga e parla proprio di ospitalità, rispetto, generosità, in particolare della storia di 2 migranti, lei e Sofia Seymour, alla quale abbiamo chiesto di raccontarci un po' di cosa tratta questo documentario. Io mi sono trasferita nel 2015 a Napoli, proprio quando stavamo tutti in mezzo alla crisi dei migranti che venivano in Italia dal Nord Africa, e era impossibile ignorarlo. La cosa che mi ha colpito è di che cosa si tratta questo documentario, è proprio la sopravvivenza di questi ragazzi mentre hanno passato delle traume assurde attraversando il deserto e il mare per venire qui, e poi in confronto con una depressione di arrivare in Italia per vedere che qui non è tutto quello che hanno sognato, riescono al di là di tutto di trovare una gioia, di sorridere e di poter stare bene anche quando tutto il popolo che li ospita magari non le vuole, o vede sul mezzo mediatico che i politici non li vogliono, però in tutto questo riescono a e trovare la gioia nella vita, la sopravvivenza di questi ragazzi è la cosa che mi ha colpito di più. Io ringrazio per la parte tecnica Roberta Frisani, tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata dei Figli di Enea. Vi diamo appuntamento sabato prossimo sempre alle 21 su Radio 24. Buona serata, buona domenica a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao.